Dottor Grandini, io partirei da lei perché vorrei capire un po', visto che questo, e non ce lo nascondiamo mai, è un periodo di forte crisi per il paese, per i cittadini e quindi ovviamente anche per le nostre tasche. Se avete già dei dati anche parziali su come si sta prospettando questo prossimo periodo di ferie e quindi come si stanno muovendo gli italiani sul fronte dell'affitto, del possibile affitto di una casa di vacanza. Certamente. Dunque, anche quest'anno le prenotazioni sono abbastanza avanzate, però se noi andiamo ad analizzare singolarmente per periodo, riscontriamo che confrontando il 2012 con il 2011, i mesi di gennaio e di febbraio portavano un aumento delle prenotazioni rispetto all'anno precedente. Purtroppo da marzo in poi tutto è regredito. Oggi siamo ad una situazione che vede un ritardo sulle prenotazioni rispetto all'anno scorso di quasi il 20%, e questo non è una cosa piacevole. Noi veniamo comunque da un anno che era il 2011, che è stato un anno splendido per gli appartamenti gestiti in forma imprenditoriale, cioè dalle agenzie, per cui era pensabile che in un momento congiunturale come questo si potesse registrare una carenza. Non ci aspettavamo comunque un meno 20% come tutt'oggi. Dottor Gaddoni, lei a proposito di questi numeri ha qualcosa da aggiungere? Poi volevo capire anche sul fronte dei prezzi, se da un anno all'altro avevano subito delle variazioni consistenti, visto che comunque sia tutti ci dobbiamo adeguare a questo momento di crisi. Ma guardi, dal lato della registrazione dei flussi prenotazioni io confermo quanto anticipato dal dottor Grandini. Anche noi abbiamo registrato uno spostamento in avanti del flusso di prenotazioni. Rispetto ai prezzi, sostanzialmente c'è una ripresentazione dei canoni 2011 per quanto riguarda la stagione 2012. Quello che abbiamo riscontrato tramite i nostri agenti immobiliari è una maggior predisposizione da parte dei proprietari nel gestire insieme ai nostri agenti la predisposizione di pacchetti promozionali preventivi, al di là ormai del fenomeno consolidato delle prenotazioni last minute, quindi sicuramente una maggior sensibilità in anticipo rispetto alla fruizione delle vacanze su quelle che possono essere le problematiche di budget da parte dei turisti.